La storia che racconta è una storia di questo genere. Allora, una ragazzina quattordicenne, torinese se ricordo bene, esce una sera e torna tardi. I genitori l'avranno attesa in piedi, come più o meno tutti i genitori di questo mondo, e si saranno angosciati non poco. Ma quando finalmente è tornata, invece di ringraziare il cielo e chiuderla lì, la trovano cambiata, diversa dal solito, la trovano strana. La ragazza non sembra nel pieno delle proprie facoltà, risponde male, dice parolacce, bestemmia. Il buon senso dei genitori di una quattordicenne avrebbe consigliato di lasciar decantare la cosa, magari caricandosi dell'inquietudine di una nottata, per poi rivedere la situazione l'indomani mattina, cercando al contempo le parole per riaprire un rapporto affettuoso. Questi invece sono di tutt'altro avviso. Prendono la ragazzina, la caricano sull'automobile e si lanciano in una folle corsa sull'autostrada verso Roma Caput Mundi, e una volta là bussano affannosamente ad una porta. Sigmund Freud si decise a scappare da Vienna soltanto quando era troppo tardi. I nazisti erano ormai padroni dell'Austria e Freud con tutta la sua famiglia correva gravi pericoli. Grazie a qualche amicizia importante e a qualche esborso di quattrini, tuttavia riuscì ugualmente ad arrivare a Londra, lasciandosi alle spalle quattro sorelle, di cui peraltro nessuna sopravviverà alla guerra. Non aveva particolari simpatie per Hitler, Freud, ma come racconta suo figlio Martin, ecco, Freud era tutt'altro che neutrale. Ce l'aveva su coi socialisti e riservava tutte le sue simpatie per il cancelliere Engelbert Dollfuss, che nonostante poi sia stato tolto di mezzo dai nazisti rimaneva l'autore del colpo di stato fascista del 1933. E in fin dei conti poi, a ben vedere, il disagio della civiltà, che è stato scritto nel 1930, era anche un tentativo proprio di opporsi a quella coniugazione di psicoanalisi e marxismo che aveva tentato di realizzare il suo allievo più reietto, Wilhelm Reich. Antiutopista di principio, Freud nutriva sconfinata ammirazione per chi in un modo o nell'altro riscuoteva successo. Una delle sue seguaci, Edith Jackson, riuscì perfino a teorizzare l'avversione della psicanalisi nei confronti del comunismo, sostenendo che le ideologie, allora tutte le ideologie, va bene, d'accordo, ma lei ne vedeva solo una, che le ideologie ostacolano le libere associazioni, ovvero la formazione di quegli spiragli attraverso i quali l'analista esperto saprebbe scorgere il rimosso e il riposto nelle cantine della nostra consapevolezza. Alle elezioni del 15 giugno del 1975 il Partito Comunista Italiano ottenne una caterva di voti. Non gli servirono ad alcunché, ma i voti erano davvero tanti. Da far paura. Mi ritrovo fra le mani una copia del Tempo, un settimanale illustrato del 26 settembre di quell'anno, e mi imbatto nella rubrica di psicologia, dove lo scienziato di turno comincia a spiegare perché molti borghesi ora si dicono marxisti. Spiega, e assecondando chi lo paga, improvvisa una manovra di recupero. L'inopinato aumento dei voti comunisti deriverebbe dai ricchi borghesi che avrebbero commesso questa comprensibile sciocchezza per i seguenti motivi. Primo, che avendo una folle paura del pericolo rosso, e non potendo fuggire né aggredire passerebbero al nemico, votando comunista. Secondo, che sarebbe in costoro emersa la loro componente femminile, ovvero sarebbero rimasti soggiogati dal fascino dell'uomo forte al quale può diventare piacevole cedere e soggiacere. Terzo, voterebbero comunista perché questo loro voto, insomma, costituirebbe un segno di conformismo. Quarto, che questo stesso loro voto potrebbe essere la manifestazione di un radicale egoismo, una rinuncia alla solidarietà di classe, diceva, si noti che sta parlando della borghesia, una rinuncia alla difesa dei propri interessi nella speranza di potersi salvare meglio da soli. Egoismo, quindi. La conclusione, pertanto, è che così stando le cose, per costui è indubbio che le cose stiano davvero così come dice lui, di queste conversioni, come di tutti i convertiti in genere, non ci si può fidare. Possono diventare dei santi, sì, d'accordo, ma anche dei traditori. Non starò a ripetere per l'ennesima volta che nelle varie psicologie si annidano ineliminabili germi reazionari. Per dimostrare la risibilità di questa tesi, della tesi del signore che ha parlato dei motivi per cui la borghesia ha votato comunista, per dimostrare la risibilità è di sufficiente far notare che tutti i suoi argomenti spiegano un comportamento, il voto, sulla base di un sapere di cui, prima di sapere l'esito del voto collettivo, nessun singolo votante poteva disporre. E il pericolo rosso è pericoloso davvero dopo il voto, non prima, e dunque chi ha votato comunista non può averlo fatto né per paura di qualcosa che non fa ancora paura, né per il godimento di soggiacere ad un più forte che non è ancora tale, né per essere conforme ad un comportamento che non si è ancora estrinsecato, né tantomeno per mettersi in salvo da qualcosa che non lo minaccia ancora, sempre che votare per il nemico costituisca un'abile mossa per mettersi in salvo. A parte la tesi su cui va steso un velo pietoso, ciò che conta è il processo di patologizzazione in atto con cui nel 1975, come in altre epoche, chi sta al potere, servendosi di scienze e ciarlatanerie come di un tutt'uno, delegittima e ghettizza chi gli si oppone con quel minimo di forza che potrebbe conferire efficacia alla sua azione. Il mercato odierno, si sa, di comunisti... Comunisti, non parlo di quelli che come fantasmi si aggirano minacciosi nei pressi del Presidente del Consiglio, di comunisti, il mercato odierno ne offre pochi, ecco, forse nessuno. È così che il testimone, come tante altre volte nel passato, il testimone passa all'indemoniato. Ora tocca a lui. Ma essendo questi proprietà della Chiesa, occorrerà stabilire i termini di una nuova alleanza e addivenire ad un'equa spartizione. Le direttive del Vaticano, sì alla collaborazione tra esorcisti e psichiatri, laici e preti in pool contro Satana, Genova, 3 medici e 3 religiosi, mi compiaccio per la parità democratica, 3 medici e 3 religiosi per valutare il caso prima del rito. Punto. Tra virgolette, è un problema reale. Dico subito che sono favorevole. Favorevolissimo. Apparati metodologici e storia delle discipline interessate stanno a dimostrare chiaramente la loro intrinseca unitarietà. La porta a cui bussano nottetempo i genitori preoccupati è quella di padre Gabriele Amort, fondatore e presidente ad honorem dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, di cui ci occupammo già il 17 novembre del 2002. È una porta che si apre. Basta battere forte e si apre. Gli consegnano la sventurata ragazzina e lui si rende subito conto della situazione. È posseduta dal demonio e occorre passare all'esorcismo d'urgenza prima che sia troppo tardi. Lui ed un collega molto esperto agiscono per lunghe ore fino a quando lei, poverina, non cade stremata a terra e a domanda risponde di non aver più un briciolo di energia in corpo. È allora che i due esorcisti si guardano in faccia, esprimendo l'un l'altro tutta la loro soddisfazione. Un'anima è salva e può essere riconsegnata nelle mani dei buoni genitori affinché la veglino in futuro meglio e più di quanto abbiano fatto nel recente passato. Questa storia non me la sono inventata, l'ha raccontata il medesimo Gabriele Amort sul tardo pomeriggio di una domenica qualche settimana fa durante un programma televisivo di largo successo. Sarebbe accaduta questa vicenda non poco tempo fa e sarebbe esemplificativa della sua abituale attività in seno alla Chiesa. Mi aspettavo la telefonata di un magistrato, l'intervento della polizia, l'ululato della Croce Verde, un milione di telefonate a telefono azzurro, qualche giorno dopo magari un pentimento del Papa, almeno un ceffone, si vergogni. Niente di tutto questo, anzi, applausi.